quando siamo al mondo, venuti per viaggiare, puoi capire questa vita che cos'è. Non basta camminare, lavorare per mangiare, c'è qualcuno che sceglierà per te. Si parte dalla scuola, si incomincia ad imparare, a leggere sui libri ciò che c'è. Quel che è scritto nella storia incomincia a funzionare, ti prenderà portandoti con sé. Affronterai la vita credendo nell'amore, cederai nel sogno di una notte. Abbandonarsi i sensi, conoscerai il dolore, il resto è dopo ancora un po' di più. C'è sempre a tutto una ragione, ma qualcosa di logico non c'è. Un credere di fede e poi la religione spianano la strada anche per te. Conflitti di interessi, l'abuso del creato, il dramma dell'uomo sai cos'è. Avere ogni tempo un suo simile alleato, decidere le guerre anche per te. Confondere le idee, il senso dell'onore, la patria e il sangue non se ne può più. Si scappa dalla guerra ed anche dall'orrore, cercare altrove ancora un po' di più. Cercare nelle stelle trovando la virtù, a volte basta poco e capirai. Avere in cielo il sole e ancora un po' di blu, se il modo di pensare cambierai. Avere un altro modo, convinti di pensare a chi nel mondo è a vivere con te. Si trova sempre il tempo e qualcuno per amare, per vivere nel poco come un re. Di come siamo stati prima nella memoria, la vita poi per tutti finirà. Se rimasti vuoti vuoi scrivere la storia, è quello che di noi poi rimarrà. Quello che di noi poi ci sarà, ciò che siamo stati resterà.